Rimini 2019, Riccione, Cattolica, Jesolo, trema la terra tutta, la vogliamo distrutta. Trema la terra tutta, vogliamo la torta di trema la terra tutta, vogliamo la tua pesca prosciutta. 2019, Riccione, Cattolica, Jesolo, trema la terra tutta, trema la terra tutta, trema la terra tutta. Rimini, Riccione, Jesolo, Cattolica, trema la terra tutta, trema la terra tutta, tutta, tutta, tutta, tutta. Terremoto sonoro, Muretto 2019, Jesolo, e la Tommy Bomb, alter ego, Jesolo 2019, trema la terra tutta, ta, ta, ta, ta. Trema la terra tutta, ta, ta, ta, ta. Trema la terra tutta, ta, ta, ta. Jesolo 2019, Riccione, Cattolica, trema la terra tutta, ta, ta. Trema la terra tutta, ta, ta, ta, ta. Trema la terra tutta, and Tommy Bomb now.